pensato ancora a quella volta che con la mano sei stato dentro il ventre di quella ragazza che in foto ti guarda. Da lì un po' più sono un peragno che sembra un po' tuo padre quando sei vestito di grigio. Si può nascondere con i baci e che un corpo è come l'oceano, un sasso. Marco, in questo altissimo giorno ti sei messo la cravatta, sei sceso in cantina e aperto il glass. Ti sei messo la cravatta, sei sceso in cantina e hai aperto il gas.